Salva Danaio di Deborah Rosciani. Tornati a Salvadanaio da Deborah Rosciani, una buona, buonissima giornata a tutti. Allora, da fine marzo l'AIAF, l'Associazione degli Analisti Finanziari Italiani, ha un nuovo presidente, il dottor Mario Noera, vicepresidente di Unicredit Private Banking, oltre che docente di economia degli intermediari finanziari dell'Università Bocconi. E allora parleremo oggi dell'attività di questa organizzazione che conta oltre 1000 iscritti, vi spiegheremo che cosa fa l'analista finanziario, perché il lavoro di questa figura professionale è importante per le scelte di investimento di noi tutti e perché questi professionisti stanno facendo anche i conti con la crisi. Allora do subito il benvenuto al dottor Noera, benvenuto a Salvadanaio, naturalmente per la prima volta qua, perché fresco fresco di nomina anche con il rinnovo delle altre cariche sociali dell'organizzazione. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah. Tra l'altro reduce, gliela racconto in diretta, anche di una brutta figura fatta la settimana scorsa da parte mia, perché c'era il presidente di una SIM, che è Antonio Tognoli, che era l'ex vicepresidente dell'organizzazione. Sì. Gli ho detto che era ancora vicepresidente, non mi ricordavo della riorganizzazione, quindi poi ho anche anticipato settimana scorsa che lei sarebbe stato oggi nostro ospite. Naturalmente con il dottor Noera approfitteremo anche per commentare il quadro di mercato, perché in questi giorni abbiamo, come sapete bene, assolutamente intensificato il dibattito, l'analisi su questi temi, perché molti risparmiatori si sono innervositi, impauriti, disorientati. Il grande tema comincia ad essere davvero come tenere il risparmio al sicuro e quando naturalmente sulle montagne russe finisce non solo la borsa ma anche il mercato obbligazionario, è chiaro che chi cerca questo tipo di protezione oggi si rende consapevole del fatto che neanche il risparmio investito nel mercato obbligazionario è più protetto. E allora certo che, come dire, questa crisi sta manifestando degli scenari assolutamente inediti e stamattina commenteremo anche tutto questo. 800 24 00 24 è il numero verde che potete utilizzare per chiamarci, per intervenire in diretta, per esprimerci le vostre curiosità e sul lavoro dell'analista finanziario, ma anche sullo scenario macroeconomico che stiamo osservando da qualche settimana a questa parte. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Visto che parleremo a lungo anche di mercati finanziari, andiamo a vedere un po' oggi che cosa succede. Cominciamo con il grande osservato speciale di questi giorni, che è l'euro sul dollaro, ieri ai minimi da 4 anni, oggi l'euro risolleva la testa sul dollaro, riconquista la soglia di 1,24, si mantiene uno sfondo appunto di incertezza, però in ogni caso oggi vigoroso recupero anche sulla scia delle rassicurazioni fornite dalla riunione dell'Eurogruppo delle ultime ore, che in sostanza ha riespresso la sua totale fiducia sul fatto che comunque questa crisi manterrà, speriamo, questi contorni e non peggiorerà. La borsa, mercato azionario, Parigi sale dell'1,24%, Francoforte sale di un punto, Londra sale di mezzo punto, la City la stamattina rimane un po' più in sordina rispetto alle altre piazze europee, Milano più 1,17%. Quindi buona giornata, anche se la partenza era stata un po' più scoppiettante, perché in avvio gli indici guadagnavano oltre un punto e mezzo. I migliori titoli di Milano: Ansaldo più 3,50, Azimut recupera un po' dopo la debolezza che ha pervaso questo gruppo del risparmio gestito moltissimo nelle ultime settimane, più 3,37, più 3,37 anche per Prismian, più 2,24 per Exor, Mediobanca più 2, Tenaris più 2, Bulgari più 1,89, Atlantia, l'ex Autostrade più 1,73%. Segno meno invece oggi insiste su Telecom, che perde l'1,67%, il Banco Popolare dopo la fiammata di ieri oggi frena e perde lo 0,45, Mediolanum meno 0,21, quindi abbiamo solamente questi tre titoli negativi sulle FTSE MIB. Buona notizia dal petrolio, che è ancora sugli 77 dollari al barile, per noi è una buona notizia perché vorremmo vederne anche gli effetti sui carburanti, che tardano ad arrivare per il solito meccanismo della vischiosità con cui i ribassi del petrolio si trasferiscono sulle quotazioni, completamente invece al contrario di quando si registrano i rialzi, ma insomma su questo tema ormai abbiamo speso anche fin troppe parole nelle scorse settimane. Lasciamo la borsa di oggi, parliamo di mercato in termini un po' più generali, sentiamo la nostra scheda prima di cominciare la nostra conversazione con Mario Noera, presidente dell'AIAF, l'Associazione degli Analisti Finanziari. Le borse tentano il recupero dopo i forti ribassi di venerdì scorso in Europa e il calo registrato a Wall Street, e l'euro riduce le perdite nei confronti del dollaro, azzerando lo scivolone ai minimi da 4 anni, messo a segno nella notte tra domenica e lunedì. Nel frattempo continua a calare il prezzo del petrolio, sceso fin sotto i $70 al barile, mentre l'oro continua a viaggiare a ridosso dei massimi. Questo è il quadro che si è presentato agli occhi degli investitori all'inizio di questa settimana. Mentre i mercati del vecchio continente hanno tentato la strada del rialzo dopo i cali decisi con i quali avevano archiviato la scorsa settimana, la moneta unica, nonostante un lieve recupero, ha continuato a manifestare la propria debolezza. La crisi del debito dell'eurozona ha fatto infatti piombare l'euro ai minimi da 4 anni fin sotto quota $1,23. Un fattore che, per la rapidità con cui il tasso di cambio dell'euro si deteriora, ha preoccupato lo stesso presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker. E proprio i timori sulla tenuta dell'euro hanno messo sotto pressione le piazze asiatiche. La peggiore è stata Shanghai, che ha chiuso con perdite intorno al 5%. E questo, insomma, quello che è un po' successo negli ultimi giorni. Adesso cercheremo anche di guardare in avanti. Io colgo subito anche un'osservazione fatta da uno ascoltatore, Carlo, che ci dice: ma quando parlate di economia, quando intervistate qualcuno, avete un'idea di quello che volete trasmettere? Carlo, ci dà via lei qualche suggerimento? Perché noi, insomma, siamo sempre a microfoni aperti nei vostri confronti, per cui ben contenti di ricevere le vostre osservazioni. Lo sapete bene, insomma, siete sempre così solerti nel chiamarci all'800240024, come ha fatto lei a scriverci al 349 238 6666. Prendo però l'aspetto positivo, dottor Noera, dell'osservazione di Carlo. Si è un po' anche trasformata la vostra professione negli ultimi anni, in questi 3 anni di crisi profonda che ci ha scosso un po' tutti, perché è diventato molto difficile fare qualunque tipo di previsione. Come è cambiato il lavoro dell'analista finanziario? Poi magari lo spiegheremo anche esattamente a chi non sa qual è esattamente il vostro ruolo. Beh, intanto possiamo dire che cosa non è un analista finanziario. Non è un previsore in senso classico, è un valutatore. Quindi nell'ambito dei mercati finanziari le informazioni abbondano e vanno in un qualche modo scrutate, osservate, per valutare se i prezzi che si formano sui mercati, le quotazioni delle società in primo luogo, quotate, sono congrui o meno rispetto alle prospettive di crescita dell'azienda, la struttura dei loro bilanci, la qualità del management e quant'altro. Sono tutte le informazioni che non sempre sono totalmente a disposizione o facilmente a disposizione dell'investitore finale, del piccolo risparmiatore, che sono disponibili però, appunto, perché anche la normativa impone alle società quotate di essere trasparenti e di fornire tutte le informazioni, ma la cui abbondanza richiede poi anche una capacità di lettura, di sintesi e così via. Quindi il lavoro dell'analista finanziario è quello di dare dei giudizi sulla base di informazioni e in alcuni casi sulla base di ipotesi che gli servono poi per dare un giudizio di congruità sui prezzi. Quindi non ha la sfera di cristallo l'analista come nessuno, ha soltanto una professionalità che mette a disposizione degli investitori. E certo, quindi si tratta di osservare i mercati, raccogliere informazioni sulle società e poi chiaramente stendere ed elaborare rapporti piuttosto corposi, dei quali noi vediamo molto spesso solo una banale sintesi, una parola: sell o buy, cioè vendere o comprare, underweight, overweight, sovrappesare, sottopesare un titolo nell'ambito di un portafoglio. Quindi questa è la sintesi di cui poi magari vediamo gli effetti anche sul mercato. Può esserci quella giornata in cui un titolo schizza verso l'alto oppure perde copiosamente terreno, perché c'è proprio un giudizio molto radicale da parte vostra, ma in genere un giudizio appunto dettato proprio da un lavoro di studio piuttosto complesso. Quindi questo anche un po' per spiegare che cosa fate. All'interno dell'AIF, dicevamo prima, circa 1000 iscritti, molti analisti finanziari lavorano nell'ambito di società di gestione del risparmio, nell'ambito di banche, altri invece sono indipendenti, dottor Noera. Quindi è una realtà molto articolata e varia. Sì. Gli analisti finanziari nascono come una professione ovviamente molto legata ai mercati dei capitali, al mercato di borsa in particolare, e quindi trovano una collocazione prevalente in tutti quegli intermediari, quelle società che operano sui mercati finanziari, quindi in primo luogo gli investitori istituzionali, quindi fondi comuni, in particolare l'SGR e così via, sì, con gli analisti buy side, sì, sono una delle due macro categorie di analisti, cioè coloro che assistono gli investitori, cioè assistono le decisioni di investimento. E poi ci sono gli analisti che invece analizzano per conto di società di intermediazione, broker, case di investimento, il mercato con le stesse tecniche, ma più che altro per fornire un servizio ai loro clienti e quindi attraverso questo servizio generare anche, come dire, una preferenza per lavorare con l'intermediario piuttosto che un altro. Questi sono gli analisti sell side. Questo è, diciamo, il profilo tradizionale degli analisti, ma che è andato poi evolvendo negli anni, anche perché la professione ha sempre più sentito l'esigenza, che è comunque comune anche ad altre figure professionali, di qualificarsi anche in maniera indipendente, in modo, come dire, immune da potenziali conflitti di interesse e così via. Questo ha dato luogo anche alla nascita di società di consulenza che fanno analisi finanziaria senza avere nessun rapporto con intermediari finanziari, né sul lato, diciamo, dell'investimento, né sul lato, né sul lato, diciamo, della, come dire, dell'intermediazione dei titoli. Questo però non significa che non siano, come dire, figure ugualmente. No, di solito sono, come dire, sono analisti finanziari che si sono formati, hanno lunghe carriere alle spalle nell'ambito degli intermediari finanziari e che a un certo punto, proprio anche sulla base della dotazione della loro competenza e della loro reputazione, si mettono in proprio, quindi sono un'attività imprenditoriale. Quindi possono stare in AIAF, si tratta di capire appunto che rappresentanza dare a questo punto a queste nuove figure professionali. AIAF si propone, diciamo, di rappresentare tutte queste istanze, perché il comune denominatore della professione, la competenza professionale, è il profilo etico, quindi anche, diciamo, l'onestà intellettuale con cui la professione deve essere svolta e la capacità, diciamo, di trattare professionalmente informazioni complesse a disposizione degli investitori. Quindi diciamo che l'AIAF si propone di essere più, come dire, il luogo in cui si riconoscono i professionisti della finanza in senso lato e non soltanto in senso stretto gli analisti finanziari fondamentali tradizionali. Adesso ci sono figure professionali che sono anche un'evoluzione delle stesse competenze, ma che hanno trovato collocazioni diverse nell'ambito delle stesse istituzioni finanziarie. Quindi in sostanza per la vostra vita si sta aprendo un dibattito molto interessante. Dottor Noera, abbiamo scatenato un bel po' di ascoltatori, in molti in maniera molto attenta ci hanno subito posto il problema e la questione che voi conoscete molto bene del conflitto di interessi, perché insomma in molti si dicono quanto può essere come dire, adeguata un'analisi fatta da un analista che opera all'interno di una banca, non è che magari in certi casi certi report piuttosto che certe analisi vengano in qualche maniera indirizzate dalla società all'interno della quale appunto l'analista opera. E poi ci sono tante osservazioni anche proprio sugli analisti indipendenti, qualcuno dice insomma Cappuccetto Rossa, questa è una bella favola, da che cosa vuole partire? Ecco, il tema del conflitto di interessi, a che punto è il dibattito su questo all'interno dell'associazione? Beh, il problema del conflitto di interessi è sempre latente in tutte le organizzazioni finanziarie, quindi investe anche la figura degli analisti, ovviamente. È stato molto acuto questo problema, vi ricordate, nel 2001, dopo i casi Enron. Ma magari possiamo ricordare anche casi italiani, quando le grandi banche sono dovute accorrere al capezzale di grandi aziende in crisi. Mi ricordo il caso Fiat, per esempio. È chiaro che è un analista che opera all'interno di una banca che deve intervenire nel capitale. Come fa ad esprimere un giudizio negativo su quell'azienda? Le faccio questo caso tanto magari per renderlo chiaro ai nostri ascoltatori. Questo è un caso possibile, insomma, di conflitto di interessi. Sì, e sono conflitti di interessi però che non hanno una, come dire, esplicitazione concreta. Che io sappia, non sono mai avvenuti casi espliciti di pressioni o di manipolazioni sull'analista. Il vero problema che permane, e questo è un problema che la normativa, ancorché molto severa, i muri cinesi, i codici di autoregolamentazione che ci sono andati non riescono ancora a risolvere, che rimane lo scetticismo da parte dell'investitore rispetto ad alcune indicazioni. Questa è la prima. La seconda è, come dire, questa forma possibile di autocensura che l'analista può avere nel dare indicazioni negative piuttosto su certe. Queste però, più che dalla configurazione organizzativa e dalla collocazione in organizzazioni che hanno interessi diversi, deriva dal fatto che l'analista ha una esposizione, una vulnerabilità, e la vulnerabilità è che ha bisogno di acquisire informazioni che siano il più attendibili possibili. Non dimentichiamo che gli analisti finanziari sono degli utilizzatori di informazioni, ma sono degli analisti esterni alle aziende e hanno bisogno di coltivare un rapporto il più possibile stretto con l'azienda per poter catturare anche aspetti, diciamo, non formali che dai bilanci non si riescono a dedurre, certo. La qualità del management, quindi un rapporto stretto con l'azienda per poter avere accesso ad informazioni che non sono riservate, ma farsi un'idea, ad esempio, di cose, infatti, che vengono informate. E questo magari spiega anche il motivo per cui, per esempio, rispetto alla medesima azienda, rispetto alla medesima obbligazione, magari due analisti possono avere, non dico magari idee contrapposte, ma molto differenti, perché può anche capitare. Certo, questo ha a che fare non soltanto con l'accesso alle informazioni, che dovrebbe essere, diciamo, libero a tutti, ma che poi è filtrato anche dall'esperienza, dalla capacità dell'impressione dell'analista, ma perché la valutazione in sé è un esercizio di stima di parametri incerti. Alcuni di questi riguardano appunto l'evoluzione futura, altri riguardano la capacità del management di gestire situazioni che sono magari complesse o di dare luogo a interventi societari sufficientemente pervasivi e di successo. Ecco, queste sono tutte valutazioni soggettive che l'analista assembla nel suo giudizio e con il quale, diciamo, corrobora, diciamo, valutazioni che invece sono la fotografia dei dati disponibili. Allora, queste cose sono altamente soggettive, hanno a che fare con la professionalità, la capacità dell'analista che cerca di travasare nel suo giudizio anche delle impressioni prospettiche. Per avere questo accesso, questo rapporto con le imprese, talvolta si crea forse una pressione psicologica che può essere, come dire, difficile da gestire per l'analista stesso quando si tratta invece di dare un giudizio negativo sull'impresa, certo. Visto che l'impresa ha tutto quindi più che il conflitto di interesse all'interno delle istituzioni finanziarie, si genera una difficoltà, e questo ovviamente la professionalità dell'analista si misura anche sulla capacità di resistere a questo, una difficoltà a esprimere giudizi negativi se questi possono compromettere il rapporto futuro con il management dell'azienda. Questo in realtà è il vero test, secondo me, della professionalità, della capacità dell'analista, cioè la capacità anche di esprimere giudizi negativi e non soltanto positivi o neutri. Io ho visto in passato, a volte non mi è capitato di frequente perché vivo molto qui all'interno della radio, ma mi è capitato qualche volta di assistere alla presentazione, per esempio, dei risultati trimestrali di molte società quotate davanti agli analisti finanziari. Devo dire che c'è qualche personaggio veramente che può mettere in difficoltà i vertici delle aziende con delle domande molto puntigliose, per cui in realtà molto spesso queste figure sono capaci anche di mettere, come dire, il pepe veramente ai manager dei gruppi in una maniera molto molto interessante, per cui poi io capisco che in un frangente come quello che stiamo vivendo adesso anche queste professionalità sono cadute un po', come dire, nel calderone della reputazione un po' meno buona rispetto al passato, come è capitato alle agenzie di rating, che sono assolutamente crocefisse in questo momento per certi aspetti, anche a ragione. È un lavoro che è molto difficile da fare, però io posso testimoniare, insomma, di conoscere molti analisti che sono assolutamente scrupolosi, puntigliosi e anche molto coraggiosi a volte, dottor Noera, perché anche tutto il discorso che ci faceva in questo momento deve portare ad assumere a volte anche degli atteggiamenti coraggiosi nell'ambito dell'azienda in cui si lavora. Sono partita prima da un'osservazione, ritorniamo al mercato perché questo è un aspetto che piace molto anche agli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Dicevamo prima, dottor Gregorio De Felice ha gestito l'AIAF nel bel mezzo della crisi dei mutui subprime, a lei adesso tocca invece governare un po' la categoria con la crisi degli stati sovrani dell'Eurozona, che speriamo qui si fermi e non si traduca in un domino irreversibile anche per altri paesi del nostro vecchio continente. Se l'aspettava questa deriva, dottor Noera? Noi ieri con Guido Giubergia da Torino, dal Salone del Libro, dicevamo, insomma, l'anno scorso abbiamo spesso raccontato di come stavano crescendo in maniera enorme i deficit per intervenire anche a salvare le banche, e quindi questa situazione in qualche maniera era stata preannunciata. Ma con questa intensità se l'aspettava? Beh, la crisi è stata innestata da una sorpresa molto forte che è intervenuta prima di Natale, a ottobre, quando i dati greci sono stati dichiarati dallo stesso nuovo governo greco fasulli, e quindi diciamo c'è stato un effetto, come dire, di disillusione rispetto a una situazione che era generalmente deteriorata ma che non riguardava l'Europa in senso stretto. Teniamo presente che il rapporto debito-PIL, deficit-PIL degli Stati Uniti, per esempio, il deficit-PIL degli Stati Uniti è doppio rispetto a quello dell'Europa, diciamo tutta insieme, dell'Europa come entità continentale integrata. Quindi il problema del debito è esploso come soluzione, diciamo tampone, della crisi precedente, ed è un pochino, ed è comune a tutto l'Occidente, non riguarda soltanto l'Europa. Quindi il tema ha acquisito una particolare virulenza in Europa, perché alcuni paesi, in primo luogo la Grecia, e poi insomma questo scetticismo degli investitori si è allargato anche ad altri paesi ad alta vulnerabilità, non sono sembrati in grado di poterlo sostenere in un tempo abbastanza largo, in parte perché era diventato più ampio di quello che si era creduto. Questo è il caso della Grecia, ma negli altri casi, nel caso della Spagna ad esempio, del Portogallo e dell'Irlanda stessa, l'elemento che è stato scatenante, diciamo, del dubbio che ci potesse essere un contagio non era tanto relativo all'entità dei debiti pubblici in sé, ma del debito in generale, anche del debito privato, e della difficoltà di questi paesi di poterlo ripagare, lo dico in maniera un pochino, con dei livelli di crescita economica sufficienti. Quindi sono sembrate che le due cose non fossero compatibili, un alto debito e le prospettive basse di crescita con la loro sostenibilità, e questo ha generato ovviamente un'ondata di scetticismo sull'intera Europa, che è stata molto aggravata dal fatto che l'Europa in generale non ha dato il segnale di saper gestire in maniera adeguata questa crisi, e quindi ha lasciato aperte delle finestre a attacchi molto mirati sui paesi più vulnerabili. Tra cui ce ne sono toccati anche diversi anche a noi. Sì, meno. L'Italia in questo frangente ha beneficiato di una serie di suoi elementi strutturali che l'hanno un po' immunizzata dalla, diciamo, prima fila degli attacchi speculativi o comunque della sfiducia che ha investito i titoli di debito europei. In primo luogo il fatto che l'Italia non dipende nel finanziamento del suo debito dall'estero, come invece i paesi che ho citato, domestico, ma tutto interno, infatti. Sì. Allora, le leggo questo messaggio, poi dottor Noera, ripartiamo dopo i suggerimenti per il viaggio da questa osservazione di un simpatico ascoltatore al 349-238-6666 che è Norberto e che mi dice: cara dottoressa Rosciani, sono molto deluso dal suo tono molto asservito. Quindi è molto deluso perché è un tono molto asservito di fronte al suo ospite, sarebbe meglio incalzarlo criticamente, perché molte delle responsabilità di questa crisi ricadono anche sui folli buy di illustri case di giudizio. Allora, dottor Noera, mi difende lei da questa considerazione del nostro Norberto, a parte gli scherzi? Sicuramente qualche giudizio, non dico allegro, ma magari non pertinente al momento del mercato, sbagliato rispetto alle società. Io mi ricordo quanto poco coraggio c'era, per esempio, anche se lì poi avevamo la truffa di fronte ad esprimere dei giudizi severi, c'era di fronte a Parmalat qualche anno fa, poco prima dell'esplosione di questa truffa miliardaria della società appunto guidata da Callisto Tanzi. Lì veramente molti analisti non si erano assolutamente accorti di quello che stava accadendo. Io mi ricordo che poco prima del crack addirittura l'azienda che difficilmente voleva incontrare gli analisti finanziari lo fece, proprio 2 mesi prima della dichiarazione di bancarotta praticamente a dicembre, e molti erano addirittura sembrati molto contenti di questo ritrovato rapporto con la comunità finanziaria da parte del gruppo. Insomma, ci si sbaglia anche dalle vostre parti? Beh, si sbaglia per forza, cioè nel senso che dare delle valutazioni vuol dire utilizzare informazioni in parte incerte e in parte diciamo non complete, quindi c'è sempre, come dicevo prima, una componente soggettiva. Nel caso di Parma ci sono delle cose, proprio delle sviste che col senno di poi sembrano ingiustificabili, appunto questa eccessi di liquidità investita che non erano giustificati e così via. Quindi diciamo ci sono alcuni casi patologici, quello di Parma è uno di questi, in cui obiettivamente e soprattutto riletto col senno di poi poteva essere anticipate degli elementi. In termini più generali però questa critica agli analisti, secondo me, come alle società di rating talvolta, è in parte ingenerosa o si basa sulla di sbagliata percezione di qual è il ruolo che gli analisti o coloro che diciamo maneggiano informazioni finanziarie svolgono. È vero che così come le società di rating esprimono giudizi sintetici che finiscono per essere appunto considerati esaustivi di un'analisi, poi vengono ad essere anche gli elementi determinanti degli atteggiamenti che molti investitori seguono, il buy, il sell, piuttosto che il neutral, hold e così via. Ma è anche vero che la differenza e la qualità di un'analisi non si giudica dal giudizio sintetico, ma dal percorso con cui si è arrivati a quel giudizio. E ma se il percorso seguito è sbagliato, se è palese che un analista abbia espresso un giudizio in maniera vistosamente errata, l'analista paga, come per esempio può capitare. C'era un ascoltatore che faceva un parallelo con il promotore finanziario, anche in quel caso non sempre quando il promotore suggerisce un investimento non pertinente alla propensione al risparmio dell'investitore, appunto, o perde il posto di lavoro o comunque sbaglia. Perde probabilmente la fiducia del cliente, che è già c'è una perdita di reputazione che per l'analista è la cosa più importante. Essendo un professionista che è sulla qualità dei giudizi che basa la propria professionalità, ma in molti casi ci sono state situazioni in cui gli analisti hanno perso il posto, tutti coloro che hanno sbagliato clamorosamente analisi, penso soprattutto agli analisti di Wall Street e così via, hanno clamorosamente, anche grandi star, considerate grandi star dell'analisi finanziaria, poi hanno perduto nel giro di un mattino tutte le loro prerogative e la loro influenza. Quindi non è vero che non ci sia una penalità dal punto di vista professionale. Ci sono poi delle penalità di natura anche penale se l'analista si presta a un utilizzo manipolatorio e illecito dell'informazione, ma questo vale per tutti quanti. L'elemento però di penalità professionale è quello più rilevante e pesa molto. Il punto però che vorrei ribadire è proprio questo, cioè fermarsi all'indicazione sintetica è sempre sbagliato, perché fare un'analisi finanziaria comporta l'applicazione di giudizi soggettivi e in parte arbitrari, l'applicazione di metodi di formule di valutative, comunque si alimenta di stime degli ingredienti che compongono quella formula, e quindi le stime, le ipotesi che l'analista fa sono l'elemento chiave della sua capacità di arrivare a un giudizio condivisibile o meno. Se uno perde questo passaggio, ovviamente compara giudizi in maniera critica e quindi non può apprezzare fino in fondo il contributo che l'analista dà, che è basato soprattutto sul fatto di rendere trasparenti ed esplicito il modo in cui il giudizio. Ecco, dottor Noera, per ritornare, abbiamo ancora un paio di minuti prima di salutarci, un po' sullo scetticismo che vedo pervade i messaggi di molti ascoltatori, appunto, che ci stanno arrivando. Perché dovremmo allora convincerli del fatto che il vostro lavoro è importante anche per i loro investimenti? D'altronde, quando arriva un buy sul mercato è molto difficile che il piccolo risparmiatore ne possa beneficiare, ma mediamente, in termini positivi o negativi, ne subisce gli effetti. effetti, questi giudizi sono comunque ad appannaggio, riservati a grandi investitori, non certo ai piccoli, quindi questo è sicuramente è un'obiezione che è difficile possiamo rimuovere tra le convinzioni degli ascoltatori. Assolutamente. E hanno anche ragione. Assolutamente, infatti questo credo che sia uno degli elementi su cui lavorare di più. E cioè rendere, aprire il perimetro che adesso è riservato agli investitori istituzionali e renderlo accessibile, poi l'accesso a certe informazioni anche agli investitori privati. Esiste un modo che si sta facendo largo, perché sempre di più anche gli investitori privati, diciamo i risparmiatori, sono assistiti da consulenti che a loro volta hanno accesso a questo tipo di informazioni. Quindi la professionalità dell'analista, anche se non in presa diretta, può contribuire attraverso la nuova figura del consulente finanziario, diciamo MiFID, quello che diciamo è stato più meglio precisato dalla normativa negli ultimi anni, beneficiare anche di questo tipo di informazioni. Ovviamente il rapporto fiduciario col consulente è basato sugli stessi presupposti su cui si deve basare anche il rapporto fiduciario con l'analista, e cioè che ci siano indipendenza, trasparenza e un servizio che si sostanzia nell'argomentare i giudizi e non soltanto nel darli. Allora, un minuto di tempo, dottor Noera, non dobbiamo sforare, e le faccio fare un'operazione incredibile, perché c'è un'ascoltatrice, Giovanna De Imperia, che è fedelissima di Salvadanaio, ci chiedeva delucidazioni sul tema dei mercati emergenti, che ci vorrebbero 16 puntate per affrontare quell'argomento, però gliela giro in questa maniera. C'è chi sostiene che, data l'enorme crescita economica di cui sono ancora protagonisti, alcune aree emergenti rappresentano oggi il vero porto sicuro degli investitori, Cina, India, Brasile. Che ne pensa? In 40 secondi ce la fa a dirmelo? Sì, in 40 secondi. Il mondo si è un po' rovesciato. Più che le prospettive di crescita, che sono sicuramente promettenti, è la solidità finanziaria di quei paesi che è molto cambiata rispetto agli anni 90 e dopo la crisi, soprattutto che li ha interessati, diciamo, alla fine degli anni 90. I paesi emergenti oggi sono paesi stabili, ovviamente esposti sempre ad alta volatilità, ma non più così rischiosi rispetto a quelli occidentali come era un decennio fa. Benissimo, io la ringrazio, le auguro buon lavoro per il suo prossimo triennio di impegno in IAF, e poi sarò proprio curiosa di vedere alla fine di questo triennio a chi lascerà la patata bollente, soprattutto quale avremo fra 3 anni. Sarà molto interessante anche in quel momento, appunto, vedere a che punto ci lascerà la crisi attuale. Grazie, buon lavoro. Grazie Deborah, grazie a tutti. Noi ci risentiamo con Salvadanaio domani. Allora, ascoltatemi bene, risparmio tradito, domani ahimè ritorniamo sui bond argentini. Ieri nuova presentazione dell'offerta di scambio del governo, appunto, di Buenos Aires, la seconda proposta, il prendere e lasciare di Buenos Aires. Domani ci ritorniamo con Nicola Stock, presidente della Task Force Argentina. Domani.